suo presente, ricordandomi le 20 storie che io già vissuto, ricordandomi sentente messe dove son caduto, il futuro mi è sembrato sempre una giornata già trascorsa, che non vedevo né temevo, che non vedevo né temevo, che non vedevo perché tu eri per me. L'Italia delle mie notti più dolenti, eri lo specchio delle mie fragilità, eri il respiro lieve dei miei giorni più sfuggenti, eri l'essenza e